America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Dopo Harvey arriva l'uragano Irma. Avrete visto le notizie, avrete sentito in televisione che questo uragano ha già colpito varie isole dei Caraibi. È un uragano tra l'altro di categoria 5, che è la massima potenza nella scala degli uragani. Ci sono raffiche, pensate, che sono di 300 km orari, e ha già toccato Barbuda, San Martin, sta per colpire Porto Rico, Haiti, le Virgin Islands. Sono posti incantevoli, devo dire, sono stato in alcuni di questi posti, sono i classici paradisi tropicali, e poi sfiorerà Cuba e infine. Then we shift our focus to the two models we have. Both of those right now are almost directly underneath South Florida by Sunday. Avete sentito? Infine Irma toccherà terra in Florida, la costa orientale americana. A quel punto i venti saranno scesi leggermente, ma Irma dovrebbe restare un uragano forza 5, e già ora, per la violenza con cui ha colpito le povere casupole dei Caraibi, è considerato l'uragano più violento mai registrato. Viene subito una riflessione: possibile che Donald Trump si stia forse rendendo conto che i cambiamenti climatici ci sono ed è meglio occuparsene invece di stralciare l'accordo di Parigi, come ha fatto, un accordo raggiunto tra l'altro faticosamente proprio sotto la leadership americana? Pensate, tanto per darvi un'idea, che quest'anno solo nelle prime 9 settimane della stagione ci sono state 6 tempeste tropicali, il doppio del normale, e 2 uragani, appunto Harvey e Irma, che sono comunque potentissimi. Ecco, questa intensità, questo lo dicono gli esperti, perché qui non si parla d'altro, devo dire, ha a che fare molto con il riscaldamento globale, in parte dovuto al fatto che le possibilità di formazione della corrente calda del Niño tende a impedire alle tempeste di rafforzarsi. Ecco, questa possibilità di formazione di questo vento caldo è calata enormemente. Un altro fattore è che le acque nell'Atlantico tropicale sono generalmente più calde del normale. Ecco, la combinazione di queste 2 cose produce inevitabilmente conseguenze come quelle che abbiamo visto con Harvey e che stiamo vedendo adesso con Irma. E la cosa buona, devo dire, nella tragedia di quello che portano questi uragani è che i meteorologi hanno fatto enormi progressi. Dunque si può giocare d'anticipo, ed è quello che sta facendo in questo momento la Florida. Sentiamo il governatore Rick Scott. This is a massive storm. Do not ignore evacuation orders. Remember, we can rebuild your home, but we cannot rebuild your life. Rick Scott ha già emanato un ordine di evacuazione. Dice: non statevene seduti ad aspettare. Possiamo ricostruire le case, ma non possiamo ricostruire le vostre vite. Prendete quello di cui avete bisogno. Ogni famiglia deve essere pronta entro oggi. Questo l'ordine del governatore. E in effetti, in attesa di questo uragano, in Florida è partito il piano di emergenza. Abbiamo visto in televisione una gran quantità di persone che hanno fatto provviste, altre che hanno caricato le loro vetture e si sono preparate a partire per andare verso l'interno. Ma torniamo ad Irma, perché questo uragano arriva a meno di 10 giorni dalla devastazione che ha lasciato Harvey a Houston e in Texas in generale. Vi dicevo già l'altro giorno, gli sfollati stanno rientrando, è un rientro faticoso nelle proprie case, perché la situazione non è ancora del tutto normalizzata. Sentiamo. I've never seen anything like that. Everything is almost gone. I just feel overwhelmed, you know. Ecco, questo era un audio che faceva sentire le voci, insomma i rumori di queste persone che rientrano fra le macerie, cercano di recuperare quello che si è salvato dall'acqua. Ho parlato con persone che erano a Houston durante l'uragano e che sono tuttora a Houston, che stanno cercando di tornare a casa. Mi dicono che il rientro procede, ma che ci sono ritardi, per esempio per la raccolta di detriti, spazzatura, e che una delle cose che colpisce è la puzza, questa forte puzza che deriva appunto da questi detriti che stanno marciando. E in questo contesto naturalmente aumenta il pericolo di infezioni. Ricordiamo, Harvey ha colpito il Texas con venti fino a 215 km all'ora, ha causato almeno 60 morti, lasciandosi alle spalle una devastazione con danni stimati fra 150 e 180 miliardi di dollari. E quindi è l'uragano più costoso della storia americana, più di Katrina. Nel frattempo, ieri abbiamo una notizia: la Camera ha approvato quasi all'unanimità la proposta di stanziamento di 7,9 miliardi di dollari di aiuti immediati iniziali. federali per aiutare nella ricostruzione del Texas. E Lone Star State, Lone Star deriva dalla bandiera, questa stella solitaria, che è una specie di stella che vuole sfidare un po' il resto del paese. Il Texas, ve lo ricordo, è lo stato più grande degli Stati Uniti, famoso per JR, famoso per il petrolio, famoso per questi personaggi eccentrici, per i cowboy, per la musica country, per il centro spaziale di Houston. Insomma, è uno stato molto complesso, con delle città molto grandi. Alcune delle più importanti città americane, Houston, San Antonio, Austin, sono fra le prime 10 città americane, e direi che questo stato straordinario, pieno di contraddizioni, ha tutte le carte in regola per ripartire. Ecco, questo era Bob Wills, Miles and Miles of Texas. Questo Texas sterminato, il governatore Greg Abbott ha detto che ci saranno complessivamente aiuti per 125 miliardi di dollari che aiuteranno a ripartire, ma per darvi un'idea di che cos'è il Texas, ha un prodotto interno lordo, un PIL, di 1700 miliardi di dollari all'anno. Pensate, il nostro in Italia è di 1800 miliardi, quindi ha un'economia che è vicina a quella italiana, un tasso di crescita del 3,9% stimato per quest'anno, una locomotiva assoluta per gli Stati Uniti. Dal 2005, tra l'altro, la crescita è stata mediamente del 3,3% all'anno. Certo, aiuta molto il petrolio, l'estrazione del petrolio, del shale gas, dello shale oil. Il reddito medio dei residenti è salito del 36% dal 2005 ad oggi, contro una media nazionale di un aumento del 27%, quindi siamo su livelli di nuovo superiori alle medie nazionali. Dunque uno stato molto orgoglioso, uno stato che ha questa grande città di Houston, la sua bandiera, Houston la più colpita dall'uragano, Houston 6,8 milioni di residenti, pensate che da sola ha un output annuale di oltre 500 miliardi di dollari, ha dato all'America due presidenti, George Bush Senior, George Bush Junior, Junior vive in Texas, e così pure il padre, che vive a Houston. La situazione non sarà agevole per le famiglie che si trovano in difficoltà, che magari sono senza lavoro. C'è un tasso di povertà, per esempio, del 16%. Sono alcune delle tante contraddizioni del Texas e dell'America. Texas che speriamo stia davvero voltando pagina, e un esempio naturalmente per gli abitanti della Florida, che si stanno preparando a questa forza d'urto dell'uragano Irma. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive aumenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi che non posso che proporvi un classico della tradizione musicale texana, visto che di Texas abbiamo parlato e di questa grinta texana, una canzone popolare interpretata da Mo Brandy, Country Western Song, e dunque di Mo, Deep in the Heart of Texas, nella profondità del cuore texano. The stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart of Texas. The sage and bloom is like perfume, deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love, deep in the heart of Texas. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.